perfetto giorno di Alessio Maurizi. Libia, Haftar non firma la tregua, Erdogan replica, se attacca gli daremo una lezione, in bilico anche la conferenza di pace di Berlino. Governo, allo studio il taglio delle tasse in busta paga per chi non ha avuto il bonus 80 euro. Scontro tra treni della metropolitana a Napoli, grave un macchinista, 5 feriti in ospedale. Milano, sulla morte di un operaio ieri nel cantiere della metropolitana, la procura apre un'inchiesta per omicidio colposo. Australian Open di tennis, qualificazioni rinviate per lo smog presente nell'area di Melbourne a causa degli incendi. Buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione, ben ritrovati con il punto delle notizie a metà giornata su Radio 24. I prossimi 15 minuti la sintesi della giornata di oggi, poi a partire dalle 13:15 i nostri approfondimenti. Cominciamo con la crisi libica, il maresciallo Haftar ha lasciato Mosca senza firmare l'accordo di cessate il fuoco con il governo nazionale guidato da al-Sarraj. Haftar ha fatto sapere alla televisione Al-Arabiya, ha detto che il documento proposto ignora molte delle richieste dell'esercito nazionale libico. Poi è arrivata anche la replica del presidente turco Erdogan, se Haftar attacca gli daremo una lezione. E domenica prossima dovrebbe tenersi la conferenza di pace di Berlino. L'Europa sta anche valutando la possibilità di inviare una missione internazionale di interposizione proprio in Libia. Questa conferenza è ancora in bilico, ma l'Italia punta ad esserci. La conferenza di Berlino sulla Libia è confermata per domenica, ad annunciarlo è il premier Conte dopo l'incontro al Cairo con il presidente egiziano al-Sisi, una trasferta delicata dal punto di vista diplomatico, visto che l'Egitto è uno degli sponsor del generale Haftar, il cui no alla tregua preoccupa le cancellerie europee. Il fatto che non si sia sottoscritta l'intesa non deve distrarci, l'importante è che ci sia un cessate il fuoco sostanziale, ha detto Conte, il quale ha confermato che se ci saranno le condizioni l'Italia è pronta a partecipare ad una missione militare dell'Unione Europea in Libia. Se ci saranno le premesse, riusciremo a dare un indirizzo politico a questa crisi libica, sicuramente l'Italia è disponibile a farlo, ma dobbiamo creare tutte le premesse anche di sicurezza. Non manderemo uno solo dei nostri ragazzi se non in condizioni di sicurezza, con un contesto e anche un percorso politico molto chiaro. Sempre sulla questione libica, stasera Conte vedrà a Palazzo Chigi i rappresentanti di maggioranza e opposizione e i ministri impegnati sul dossier. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Il generale di Bengasi, Khalifa Haftar, ha lasciato Mosca già ieri sera, senza firmare l'accordo sul cessate il fuoco in Libia, al quale invece aveva aderito il presidente del governo di accordo nazionale di Tripoli, Fayez al-Sarraj. La parola ora passa alla conferenza di Berlino, che si terrà domenica prossima e che è stata confermata, e nel quale il documento sul cessate il fuoco presentato dalla Turchia e dalla Russia verrà probabilmente condiviso da tutta la comunità internazionale. E l'UNSMIL, la missione delle Nazioni Unite, potrebbe decidere la creazione di una forza di interposizione a guida europea. Il presidente del Consiglio italiano Giuseppe Conte in queste ore sta incontrando al Cairo il presidente egiziano al-Sisi per convincerlo a fare pressione su Haftar perché accetti il cessate il fuoco. Nel pomeriggio Conte incontrerà, insieme ai ministri degli esteri Di Maio e della difesa Guerini, i capigruppo della maggioranza e dell'opposizione per aggiornarli sulle ultime vicende della crisi libica. Gerardo Perosi, Radio 24, Il Sole 24 ore. Allora, torniamo in Italia con la politica. Il governo punta ad una riforma fiscale per diminuire da un lato il peso delle tasse sulle buste paga dei lavoratori e dall'altro agire anche direttamente sull'imposta sui redditi. Sentiamo. La riforma IRPEF e il taglio del cuneo fiscale agitano la maggioranza. Il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, annuncia l'intenzione di incontrare i sindacati venerdì per fare il punto sul taglio del cuneo fiscale. La legge di bilancio quest'anno ha infatti stanziato 3 miliardi per la sforbiciata del cuneo. La prima tranche della riforma fiscale vogliamo farla partire subito, dice Gualtieri, prevedendo entro la fine di gennaio un decreto che consenta di ridurre le tasse fino a 14 milioni di lavoratori, specie di redditi medio-bassi, finora esclusi dagli 80 euro. Ma la mossa di Gualtieri l'incontro con i sindacati non è piaciuto al Movimento 5 Stelle. Sono convinta, puntualizza il vice ministro all'economia Laura Castelli, che prima di venerdì ci incontreremo con Gualtieri per condividere una linea unitaria. Il Movimento 5 Stelle, mette in guardia Castelli, ha una proposta e idee chiare su quello che va fatto, anche sulla riforma dell'IRPEF. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E l'azione del governo si intreccia con quella dei partiti, Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, in particolare in vista delle elezioni in Emilia-Romagna. Ieri il PD di Zingaretti ha rilanciato l'idea di un patto di legislatura agli alleati. Daniele Biacchessi. In politica, quando le cose non decollano, in genere viene lanciato un nuovo progetto di partito, magari con un altro nome. Di questa tendenza la storia repubblicana non è avara di esempi in tutti gli schieramenti. Lo è ancora di più per la sinistra, il cui partito di riferimento in 30 anni si è trasformato da PC in PDS, DS e PD, imbarcando culture differenti, ex comunista, cattolica progressista, socialista. Ora il PD è a un bivio: divenire partito di mera testimonianza oppure rinnovarsi. Sì, ma come? Nel seminario di Contigliano, vicino a Rieti, il PD ragiona sulle alleanze di governo, ma non propone una nuova strada da seguire per i suoi elettori, cioè una nuova identità che non può essere rappresentata nei simboli, nel nome, nel logo. Infatti la linea strategica del partito prevede un accordo di lungo periodo con i 5 Stelle, lo dice Franceschini, con i movimenti delle sardine, Friday for Future, lo dice Boccia, ma manca il pensiero alto su quale modello di sviluppo proporre agli italiani. Lavoro, ambiente e scuola, ripetono tutti nel conclave di Contignano, come fosse un mantra. Per ora incombono le regionali in Emilia, Romagna e Calabria. Dipende tutto da quello che succede lì, mandano a dire alcuni dirigenti dall'abbazia. Certamente il voto orienterà la rotta. Con la cronaca torniamo all'estero, andiamo in Iran. Ci sono state una trentina di persone fermate nelle proteste scoppiate da sabato per l'abbattimento del Boeing ucraino. L'Iran punirà tutti i responsabili dell'aereo ucraino abbattuto. La promessa fatta dal presidente iraniano Hassan Rouhani si sta traducendo in fatti. Alcune persone sono state arrestate nelle ultime 72 ore dopo l'apertura di un'indagine a tutto campo sul Boeing abbattuto. Ha infatti fatto sapere, senza specificare il numero degli arresti, il portavoce della magistratura di Teheran. Quest'ultimo ha anche confermato l'invio delle scatole nere in Francia per essere analizzate. Un coinvolgimento degli esperti di Parigi era stato annunciato dalle autorità iraniane nei giorni scorsi, anche perché i motori dell'aereo erano stati realizzati da una compagnia francese. Intanto sono circa 30 le persone fermate in proteste illegali scoppiate da sabato in Iran proprio per l'abbattimento del Boeing ucraino, costato la vita a 176 persone, tra cui molti canadesi. Teheran aveva negato ieri di aver sparato contro i dimostranti, ma sui social sono stati pubblicati diversi video che mostrano persone a terra ferite da colpi di pistola. Intanto il premier canadese Justin Trudeau punta il dito contro il suo omologo americano Trump. Se non ci fosse stato un escalation di recente nella regione, i nostri connazionali morti nel disastro sarebbero a casa con le loro famiglie, ha detto Trudeau, specificando che il Canada non era stato avvisato in anticipo del raid contro il generale Soleimani e che ovviamente avrebbe preferito esserlo. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. La cronaca ci porta in Italia a Napoli. Scontro tra treni della metropolitana questa mattina, paura tra i passeggeri e anche alcuni feriti. L'impatto intorno alle 7 tra le stazioni di Colli Aminei e Piscinola sulla linea 1 della metropolitana. Il tamponamento a catena ha coinvolto 3 treni, uno con molti passeggeri a bordo. 5 le persone che alla fine sono state trasportate in ospedale, tra loro 2 macchinisti. Altri passeggeri sono stati invece medicati sul posto per escoriazioni e soccorsi per la condizione di shock. Indagini dei carabinieri sono in corso per far luce sulle cause dello scontro. Per accertare cioè se si sia trattato di un errore umano o di un guasto nel sistema che regola la circolazione dei treni. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. La Procura di Milano ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo sulla morte dell'operaio Raffaele Ielpo, 42 anni, rimasto sepolto ieri dai detriti, mentre lavorava a 18 metri di profondità nel cantiere della nuova linea 4 della metropolitana di Milano in piazza Tirana. L'area è stata sequestrata. Nuovi guai per il viadotto del Cerrano sulla A14 tra Pescara Nord e Pineto. I piloni che lo sorreggono si sono spostati di alcuni centimetri, secondo le perizie del giudice di Avellino, che ha disposto limitazioni al traffico pesante. code chilometriche e alti livelli di inquinamento. Circolazione sempre in tilt per la chiusura parziale del viadotto Cerrano sulla A14 tra Pescara e Pineto. Ci sono spostamenti di 7 cm in corrispondenza dei piloni. Scrive il GIP di Avellino che il 18 dicembre ha disposto il divieto di transito ai mezzi pesanti dirottati sulla statale 16. Autostrade ribadisce la sicurezza del ponte abruzzese e consegna la relazione al Ministero dei Trasporti che, come anticipa il Sole 24 Ore, ha dato l'ok alla riapertura ma a condizione che i TIR tengano una distanza di almeno 100 metri tra loro e una velocità di 40 all'ora, mentre i mezzi leggeri potranno andare a 60. Al momento la situazione è insostenibile, ci racconta il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio. La nostra speranza è che il GIP di Avellino possa presto dissequestrare il viadotto del Cerrano, comunque liberarlo al transito dei mezzi pesanti. Sta diventando un'emergenza nazionale perché si spezza un intero asse economico che parte dalla Puglia e finisce nel nord Italia. I danni per le imprese sono enormi, spiegano gli autotrasportatori pronti ad azioni legali. Il segretario Faiconf Trasporto Abruzzo Molise, Carlo Antonetti. Se c'è questo continuo rimpallo tra il GIP di Avellino, le autostrade, il Ministero dei Trasporti, qualcuno dovrà prendere la decisione di definire questa questione una volta per tutte. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Novità sul sistema antimarea a Venezia. Stanotte la prima prova sul Mose è andata bene. Se si ripresenterà l'emergenza potremo alzare le paratie per contrastare l'acqua alta a Venezia. Lo ha detto oggi il Ministro delle Infrastrutture Paola De Michele. E adesso parliamo di una notizia che riguarda la cultura. Una grande mostra dedicata a Vincent van Gogh si terrà a Padova a partire dal 21 ottobre nello spazio San Gaetano. I colori della vita, con 125 capolavori esposti, sarà anche la celebrazione dei 25 anni di Linea d'Ombra. Il curatore Marco Goldin al microfono di Adriana Fracchia. Una mostra molto diversa da quelle altre fatte dall'inizio del 1886 fino all'estate del 1890, ricostruendo un po' il tessuto della pittura, per esempio quando Van Gogh arriva ad Arles e dove dipinge i campi di grano famosissimi, quali sono i pittori che trova, che sono pittori di salon, che rappresentano Arles in un modo assolutamente accademico, aneddotico, e lui invece si tuffa dentro il colore, poi anche lì ricostruendo precisamente i due mesi passati assieme a Gauguin nella Casa Gialla, quindi i quadri che uno ha fatto, che l'altro ha fatto, quello che hanno guardato in quel momento di altri pittori, saranno presenti quindi i quadri di Delacroix, di Courbet, tutto quello di cui poi parlano nelle lettere. La mostra procede esattamente in questo modo, con una ricostruzione veramente certosina di tutto il percorso. Gli Australian Open di tennis si fermano per gli incendi. Il torneo che apre la serie annuale degli Slam è partito nonostante l'emergenza, ma gli effetti della cappa di smog si sono fatti sentire subito. Le qualificazioni in programma oggi sono state ritardate di 2 ore. Molti tennisti hanno protestato chiedendo l'annullamento della giornata di qualificazione. 13 e 12 minuti, facciamo una pausa, torniamo tra poco con le altre notizie. Andremo a Roma per valutare se i limiti al traffico delle auto diesel, tutte le auto diesel oggi bloccate a Roma, è servito a migliorare la qualità dell'aria. Lo valuteremo insieme al direttore generale dell'ARPA Lazio. Poi parleremo ancora delle anticipazioni del libro di Papa Ratzinger, Papa Emerito Benedetto XVI, perché c'è un giallo, se c'è da capire se Papa Ratzinger fosse consapevole che le frasi che ha rilasciato al cardinale Saraf sarebbero poi confluite in un libro oppure no. Insomma, il ruolo del Papa Emerito in una situazione un po' caotica all'interno della Chiesa e del Vaticano. 13 e 13 minuti, 349-238-6666 per i vostri messaggi. Ci trovate anche sulla pagina Facebook di Effetto Giorno. Promo 24. Appuntamento alla Pipeline and Gas Expo 2020, The Utility Construction Show, l'unica manifestazione fieristica in Europa interamente dedicata ai comparti del midstream e delle reti distributive di gas, oil and water. Attrezzature, strumentazioni e prodotti per la costruzione, il monitoraggio e la manutenzione delle pipelines e tecnologie dedicate alla gestione di gasdotti, oleodotti e acquedotti. Alla Pipeline and Gas Expo 2020 sono anche previsti convegni con relatori di fama internazionale dedicati al futuro del mercato del gas e del biogas e alle tecnologie del LNG anche nel comparto marittimo e dell'autotrazione. A Piacenza Expo dal 20 al 22 maggio 2020. Per info pgexpo.eu. Effetto Giorno. Libia, Haftar non firma la tregua, Erdogan replica, si attacca, gli daremo una lezione. Conte, possibile invio di militari italiani. Scontro tra treni della metropolitana a Napoli, grave un macchinista, altri 5 feriti in ospedale. A Roma la giunta blocca tutti i diesel per limitare lo smog, critiche bipartisan, per Legambiente è troppo tardi, i commercianti impossibile usare i mezzi pubblici disastrati, ma cosa dicono i dati? Oggi, tra poco, a effetto giorno con il presidente dell'ARPA. Nomination agli Oscar, la Corea del Sud sfida il predominio americano, ma oltre Parasite il fenomeno coreano riguarda musica, moda e cultura. Australian Open di tennis, qualificazioni rinviate per lo smog presente nell'aria di Melbourne a causa degli incendi. Minuti e con noi Marco Lupo, direttore generale di ARPA Lazio, benvenuto. Buongiorno a tutti. Allora, come sappiamo, ha suscitato un po' di anche un po' di polemiche, come sempre quando ci sono divieti alla circolazione delle auto, c'è sempre qualcuno che non è soddisfatto. Questa volta, a dire la verità, la giunta Raggi si è beccata delle critiche da ambo le parti, dalla parte degli ambientalisti che dicono è troppo tardi, bisognava intervenire prima perché Roma è da giorni che soffoca, e chi invece, come i commercianti ma anche i consumatori, oggi dicono ma bloccare anche i diesel Euro 6, cioè gli ultimi usciti, negli orari in cui le persone accompagnano per esempio i figli a scuola con i mezzi pubblici di Roma è un disastro. Senta Lupo, al di là di queste questioni, ci sono i dati di oggi? È possibile fare già una valutazione su come sta andando la giornata nelle centraline che rilevano lo smog? Ma guardi, i valori di PM10 hanno dei limiti come media giornaliera, quindi i dati di oggi verranno comunicati come media delle 24 ore nella giornata di domani. Oggi abbiamo i dati di ieri, cioè delle 24 ore del giorno 13, e sono dati che, come dire, dimostrano la permanenza di un'assoluta criticità, perché su 13 centraline nel comune di Roma 8 hanno superato i limiti, quindi addirittura la centralina di Tiburtina su 13 giorni ha superato per 11 giorni. Quindi di quanto sono stati superati i limiti? Qual è l'entità dello sforamento? Ma guardi, i valori vanno da 55 microgrammi per metro cubo, tenete conto che il limite giornaliero è 50, fino a 71 microgrammi per metro cubo, quindi comunque valori al di sopra del limite fissato dalla legge. Senta, ma un'occhiatina gliela avrà data ai dati, va bene che fate la media, però non è in grado di darci una linea di tendenza, un'idea, guardi, insomma, se il blocco sta servendo. Allora, sono in grado di darvi, diciamo, quelli che sono le nostre previsioni sia per la giornata di oggi che per le giornate di domani fino a sabato. Allora, la situazione rimarrà critica sia oggi che nelle giornate, nei giorni successivi fino a sabato. Sabato ci dovrebbe essere un miglioramento perché sono previste delle precipitazioni e quindi ovviamente le precipitazioni determinano una deposizione al suolo delle polveri. Però fino a sabato la situazione rimarrà all'incirca come quella di oggi, quindi una situazione assolutamente critica. Senta, ma la situazione rimane critica, fondamentalmente conta il tempo, il meteo che non aiuta, il blocco però della circolazione delle vetture private, si spera che, visto il sacrificio che stanno facendo i romani in queste ore, serva a qualcosa. Le vostre aspettative è che, diciamo, il blocco anche criticato dei diesel Euro 6 possa servire a qualche cosa, o, come dire, sia veramente un palliativo rispetto per esempio ad altre cose che si potrebbero fare, come per esempio imporre limiti sul riscaldamento, per esempio? Allora, guardi, io purtroppo su questa questione si fa, secondo me, un po' troppa confusione. Allora, limitazione del traffico, intanto diciamo che la criticità sul territorio della città di Roma è una criticità derivante per circa 60%, se non leggermente di più, dal traffico regolare. Quindi è soprattutto il traffico regolare che determina problematiche nella città di Roma. E questo a differenza di quello che avviene in altre zone della regione, per esempio nella Val del Sacco, la situazione invece è diversa, cioè lì la criticità è determinata soprattutto dai riscaldamenti e soprattutto dall'utilizzo di biomasse. A Roma il problema è soprattutto relativo al traffico regolare. Ora, la limitazione del traffico non è una misura che è finalizzata a risolvere il problema. È una misura emergenziale che serve per evitare un ulteriore aggravamento della situazione. Cioè è una misura che si adotta in una situazione di assoluta gravità e criticità, secondo un piano operativo che il Comune peraltro ha approvato da tempo. E Ovviamente per risolvere il problema alla base bisogna lavorare su altre questioni, e in particolare su Roma, dove il problema è soprattutto il traffico, su un potenziamento vero del trasporto pubblico, cioè nell'offrire ai cittadini una vera alternativa efficace ed efficiente all'utilizzo delle auto. Va bene, grazie al direttore generale dell'ARPA Lazio, Marco Lupo, per essere stato con noi. Insomma, naturalmente ogni volta si riaprono anche le polemiche, nessuno vuole rinunciare chi la utilizza ed è costretto magari a farlo all'automobile. D'altra parte, avete sentito, per quanto riguarda Roma, il traffico veicolare influisce molto in una città dove i mezzi pubblici non riescono ad agevolare gli spostamenti delle persone, che quindi non possono rinunciare facilmente alle auto private. Staremo a vedere. Staremo a vedere, naturalmente, perché siamo tutti curiosi di sapere quello che Lupo non è riuscito a dirci adesso, cioè i dati stasera, se effettivamente il blocco del traffico è stato utile, diciamo, a diminuire le emissioni, lo smog in città a Roma. Adesso invece parliamo di tutt'altro argomento. Ieri le nomination agli Oscar, e ha fatto abbastanza scalpore le 5 nomination del film sudcoreano Parasite, che ha deciso quindi di sfidare il predominio hollywoodiano per quanto riguarda il cinema, ma il fenomeno della Corea del Sud non riguarda soltanto il cinema, va oltre, riguarda cultura, moda e altro. Sentiamo. Sono ricchi ma anche gentili. Sono gentili perché sono ricchi. Dopo aver vinto la Palma d'Oro a Cannes e il Golden Globe come miglior film straniero, Parasite di Bong Joon-ho si appresta a sfidare il dominio di Hollywood agli Oscar 2020. Con le sue 6 nomination, tra cui quelle a miglior film e miglior regista, la pellicola porta per la prima volta la Corea del Sud nel libro d'oro dell'Academy. Ma il fenomeno che fa del paese asiatico il riferimento di tutto ciò che fa tendenza non passa solo dal cinema. A fare notizia negli ultimi anni il boom del K-pop, genere musicale da milioni di dischi venduti, tour mondiali e seguito enorme sui social, primi fra tutti i Bangtan Boys. Oltre 15 milioni di dischi venduti nel 2018, sono stati il secondo artista per numero di vendite a livello mondiale. Numeri da record anche per la K-Beauty, la cosmesi coreana che quest'anno, dati Euromonitor, raggiungerà i 3 miliardi di dollari. Ogni declinazione della Korea Wave, c'è chi lo chiama K-Factor, porta con sé veri e propri fenomeni di culto, dalle arti marziali con il Taekwondo al cibo con il boom dei ristoranti coreani e la tendenza a salutare dei cibi fermentati, vedi il kimchi, il principe dei piatti tradizionali coreani. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Il mio primo pensiero è stato quello di fare un festival che potesse in qualche maniera stupire, essere imprevedibile, ma soprattutto farlo come lo sentivo io, e possibilmente mai adagiandomi su quelli che sono state le 69 edizioni precedenti. Quindi un Sanremo fatto, essendo celebrativo i 70 anni, solamente un Sanremo guardando al passato. Sarebbe stato un grandissimo errore. Volevo fare un Sanremo che avesse, e sarà così, un occhio al passato, e quello è fondamentale, la nostra storia, ma soprattutto un Sanremo che guarda al presente e al futuro. Ecco qua, con queste parole Amadeus stamattina dal Casinò di Sanremo ha presentato la 70esima edizione del Festival della Canzone Italiana. Non è che l'ha presentato, ma insomma ha illustrato quelli che saranno i contenuti del Festival di Sanremo, illustrazione che ha seguito per noi Marta Cagnola. Ciao Marta. Ciao Alessio, guarda, non è che l'ho seguita, la sto ancora seguendo, perché è iniziata alle 12:30, prima i saluti di rito, sì, quelli, no, il sindaco, il Casinò, poi Amadeus ha parlato per 12 minuti e 34 secondi, ha fatto un monologo. Cioè, nemmeno Fidel Castro a Cuba, esatto. Cioè così. Va bene. Allora, una conferenza stampa a Fiume. E questo ha cominciato, per ora ha annunciato quali saranno le donne che lo accompagnano. Molte le conosciamo, quasi tutte le conosciamo, altre no. Monica Bellucci, Mara Venier, Antonella Clerici, Rula Gebreal, dopo tutte le polemiche, Diletta Leotta, Sabrina Salerno, Laura Chimenti e Emma D'Aquino, che sono due conduttrici bravissime del TG1, Giorgina Rodriguez, che è la moglie di... Chi? Cristiano Ronaldo. Molto bene. Francesca Sofia Novello, che è la fidanzata di Valentino Rossi. Molto, molto bene. E Alketa Veju, che è una conduttrice albanese che ci sta incuriosendo molto, perché insomma... Non è fiddanzata e moglie di nessuno, almeno. Non mi risulta. Per me è già un titolo di merito. Quindi sì. una serie di conduzioni, spieghiamo bene, due donne ogni giorno, che ogni sera, sì, perché, che saranno al fianco di Amadeus. Perché lui ha deciso di superare la vecchia formula, conduttore, due donne, ma di far raccontare tante storie al femminile. Questo sì. potrebbe essere sulla carta molto interessante, ma non ci saranno anche dei maschietti. Già, ha moltiplicato questa formula all'ennesima potenza. Sì, poi però ci sono anche degli uomini, perché ci sarà Tiziano Ferro tutte le sere, confermato, Fiorello sì. e Roberto Benigni. Quindi questi sono comunque nomi che già si conoscevano, ma nomi super super pesanti. Però per quanto riguarda ospiti sì. stranieri, non si sa ancora nulla, perché la conferenza stampa è in corso. C'è una cosa certa e vorrei sì. farvi sentire qualche secondo di Amadeus, che ha detto una cosa importante per questo 70° festival, che avrà tanti punti in tutta la città, perché c'è tanta gente che va a Sanremo per sentire l'atmosfera del festival in quei giorni. Ha detto: Sanremo è di tutti. Sanremo è di tutti, Sanremo non è mio, Sanremo è nostro, Sanremo è della stampa, Sanremo è della gente, Sanremo è dei cantanti, Sanremo è dei conduttori, Sanremo è dell'intera Rai, Sanremo appartiene a tutti, non c'è niente al mondo, voi lo sapete meglio di me che avete un'esperienza di anni e anni e anni di Sanremo, non c'è niente che possa coinvolgere tutti, c'è il tassista che mi porta e mi dice: ok, alla prima serata ho letto che c'è questo, ma alla seconda chi metti? Perché io metterei, cioè il tassista mi giustamente il consiglio della presenza femminile o del cantante, perché ripeto, Sanremo è di tutti ed è quello che io ho voluto fare. Ecco, pare che è partito abbastanza piacione. È vero, bene, ma lui è così, bene. È così. Vorrei dirti una cosa sì. solo, che hanno detto proprio in questo istante. Sì. Per la prima volta nelle varie serate saranno interpretate nella lingua dei segni su un canale dedicato. E questa cosa è curiosa, però interessante, perché no? Senti, le canzoni, beh, c'è tempo, se ne è già un po' parlato, c'è le ascolteremo tempo, venerdì mattina in anteprima noi della stampa. Quindi, però quindi, si sanno solo i titoli. Per ora si sanno solo i titoli, gli autori ovviamente, i cantanti, sì. le ascolteremo in anteprima, chiusi in una stanza della RAI sotto giuramento di segretezza, venerdì mattina. In Senti, ma la cosa più importante di tutte, non so se si sa già o doveva svelarla stamattina Amadeus, ma come si voterà, come verranno scelte le canzoni? Perché ogni anno c'è polemica, giuria popolare, allora, mica giuria Audi. Quante ore abbiamo per spiegare? Non abbiamo tante ore, quindi ti posso dire che c'è un meccanismo molto complesso. Diciamo che sono state fatte delle piccole correzioni sì. rispetto all'anno scorso dopo le polemiche, sì. ma comunque ci sarà un metodo di voto misto. Quindi giuria, non c'è di qualità, pubblico, poi te lo spiego con calma dopo. Va bene, con calma, non c'è fretta. Grazie Marta Cagnola. 13 e 29 minuti, 349-238-6666 per i vostri messaggi. Ci trovate anche sulla pagina Facebook di Effetto Giorno. Torniamo tra poco. Fineco, la banca che semplifica la banca, vi presenta. Quindi, ieri ho preso un maglione, tre camicie, due paia di jeans e una giacca. Niente male per una giornata di saldi, eh? Ma vai, ho preso New York. Pensa in grande con i saldi Air Italy. Prenota entro il 20 gennaio e vola con sconti fino al 25% a New York, Miami, Toronto, Maldive, Los Angeles e tante altre destinazioni. Info e condizioni su airitaly.com. Air Italy. Imagine the world differently. Non so, dici che mi stava meglio Miami? Le tecnologie IoT a supporto della supply chain creano data intelligence per governare i processi del futuro. Al 41esimo SIGEP di Rimini, dal 18 al 22 gennaio, vanno in scena le soluzioni edge to edge di Zebra Technologies. Info su multimac.it. Allora, com'è là fuori? 10 gradi sotto zero e una terribile bufera. Neve e ghiaccio dappertutto. Tempo perfetto. Ok, GLC, questo è il nostro momento. Sfida l'inverno con la trazione integrale 4Matic del nuovo GLC. Oggi hai 4.000 euro di eco-incentivo Mercedes-Benz su tutta la gamma GLC. Se permuti la tua auto da Euro 0 a Euro 5 e con MyDrive Pass scegli la soluzione finanziaria più adatta alle tue esigenze. Scopri di più su mercedesbenz.it. Nel 2002 mi sono diplomato. Nel 2006 ho aperto un bar. Nel 2010 mi sono sposato. Nel 2011 è nata mia figlia. Nel 2015 sono stato arrestato per omicidio. Nel 2016 sono stato condannato a 30 anni. Nel 2018 sono stato assolto con formula piena. Troppo spesso consideriamo mostro un innocente. Il Riformista è l'unico giornale che combatte ogni giorno contro manette facili e giustizialismo. Il Riformista, il quotidiano uguale a nessuno. Pubblicità. Valorizza i tuoi risparmi con Chebanca. Con conto deposito hai l'1% annuo lordo sulla nuova liquidità vincolata 6 mesi entro il 29 febbraio 2020. Interessi in anticipo. Fogli informativi su chebanca.it. Chebanca. Gruppo Mediobanca. Effetto giorno. Libia Haftar non firma la tregua, Erdogan replica, si attacca, gli daremo una lezione. Governo, allo studio il taglio delle tasse in busta paga per chi non ha avuto il bonus 80 euro. Scontro tra treni della metropolitana a Napoli, grave un macchinista, ferite altre 5 persone. Milano, sulla morte ieri di un operaio nel cantiere della metropolitana, la procura apre un'inchiesta per omicidio colposo. Celibato tra i preti, il cardinale Sara conferma, Ratzinger sapeva che sarebbe uscito un libro, ma il nodo in Vaticano resta quello della convivenza dei due papi, ne parliamo tra poco con il professor consorti di diritto canonico. Australian Open di tennis, qualificazioni rinviate per lo smog presente nell'area di Melbourne a causa degli incendi. Felice 36 minuti, cari ascoltatori, un nuovo buongiorno da Alessio Maurizi, ben ritrovati con Effetto Giorno in diretta. Questi titoli di oggi, i vostri messaggi al 349-238-6666, molti che riguardano la vicenda di Roma chiusa al traffico privato per via dello smog che ha sforato, e ci sono messaggi come al solito contrastanti, molto contrastanti. Ce ne sono alcuni che ci accusano per esempio di essere incoerenti, imparziali nel confronto tra Roma e Milano. Un ascoltatore scrive: tu respiri bene a Milano, credo sia riferito a me, e però la giunta sala non si tocca, vero? Che coerenza che avete. Oppure un altro che dice: non parlate dell'uomo morto nella metropolitana targata Sala. L'abbiamo appena parlato, c'era nei titoli, abbiamo fatto un servizio in apertura, così come abbiamo parlato altre volte delle critiche alla giunta Sala, se sono state prese divieti per esempio al traffico. Ogni volta che questo accade, chi amministra, il sindaco, si prende la sua quota di critica per aver fatto troppo o troppo poco. La differenza, caro ascoltatore, mi accaloro per quanto riguarda Milano, è che è il contesto. Qua si sta scavando appunto una metropolitana per migliorare la situazione del traffico e per migliorare l'aria della città. È partito tutto un lavoro per ripianare le buche delle strade, se ne stanno accorgendo tutti, dopo che molti cittadini avevano sollevato tante critiche come a Roma. Cioè il contesto che cambia, il senso di marcia, qua si cerca di dare risposte ai problemi. Lo sta facendo, credo, anche la Raggi. Io non vivo a Roma. Il problema è che adesso lei raccoglie tutto quello che in passato non è stato fatto, però è giusto che una giunta, tra 3 anni in carica a Roma, si faccia carico anche dei problemi non risolti che magari arrivano dal passato. 13:38 minuti è il momento del punto del vice direttore del Sole 24 Ore. Il punto di Alberto Orioli. Che sia sacrosanto il taglio del cuneo fiscale è posizione ormai condivisa. Del resto in Italia a una busta paga netta di 21.461 euro medi all'anno, dato Istat, corrisponde un costo del lavoro di 41.175 euro, che è quasi il doppio, ed è qui evidentemente che c'è il margine per aumentare le retribuzioni. Il problema è come, con una detrazione o con un bonus a effetto tipo gli 80 euro di Renzi? È questo l'oggetto del contendere tecnico che vede diverse anime all'interno del governo. La forma della detrazione avvierebbe di fatto anche la riforma fiscale più in generale, ma sarebbe poco percepibile in busta paga. Tutto diverso l'impatto di altri 80 euro più o meno, che comporta però problemi di contabilizzazione del bilancio pubblico perché diventano spesa aggiuntiva. Sia come sia, il tema della riforma fiscale è ineludibile. Ci sono 187 miliardi di incassi IRPEF e un'evasione stimata di 108. Ci sono 133 miliardi di incassi IVA e 36 stimati di evasione. Poi c'è un sommerso, come è noto, di 210 miliardi. Il tesoretto è qui, nell'evasione fiscale, e dovrebbe esserlo per ogni governo di ogni colore. Torniamo a parlare delle anticipazioni del libro di Papa Emerito Ratzinger col Cardinale Sarà. dal profondo del nostro cuore, in cui Benedetto XVI, come sapete, ne abbiamo parlato anche ieri, ha detto il suo no all'ipotesi di consentire l'ordinazione di sacerdoti sposati, un'ipotesi divenuta concreta dopo il sinodo sull'Amazzonia. Oggi il cardinal Sarà ha dovuto smentire il giallo di un testo che sarebbe uscito come una forzatura rispetto a quello che Papa Emerito Ratzinger avrebbe saputo, cioè il Papa non sarebbe stato a conoscenza del fatto che le sue frasi rilasciate a un giornalista e a Sarà sarebbero poi diventate un libro vero e proprio. Sarà ha detto no, il Papa lo sapeva. Eppure poco fa c'è un'altra precisazione di Monsignor Genswein che dice il contrario: il Papa sapeva che stava preparando un libro ma non aveva approvato alcun progetto per un libro a doppia firma, dunque il giallo va avanti. Noi però vogliamo parlare della convivenza tra i due papi, con Pierluigi Consorti, ordinario di diritto canonico all'Università di Pisa, tra l'altro presidente dei canonisti degli Atenei italiani. Benvenuto. Buongiorno, grazie. Allora, partiamo dalle basi, la convivenza tra questi due papi. Intanto Papa Emerito, che ruolo è questo di Papa Ratzinger da quando appunto è successo quello che sappiamo? Questa è una cosa ancora tutta da inventare, perché non esiste il ruolo di Papa Emerito nella Chiesa e non è mai esistito. Esiste sempre invece la possibilità del Papa di rinunciare al suo ufficio. Ma certamente quando Papa Benedetto XVI ha annunciato che avrebbe rinunciato, era la prima volta che succedeva, diciamo, nell'età contemporanea, quindi da quel momento in poi bisognava scoprire tutto. Ed è stato lui stesso, sembrerebbe, a inventare questo titolo di Papa Emerito, che non c'è scritto in nessun documento canonico, non è mai esistito finora. Ma è in diritto canonico che cosa esiste qualche riferimento, qualche norma su questa materia? Sì, c'è una norma soltanto in un canone che precisa il fatto che se il Papa vuole può rinunciare in maniera libera al Ministero Petrino. Quando noi studiavamo questa norma e ancora la insegniamo, generalmente diciamo è una norma di carattere generale, non succederà mai. E invece vedi, è successo. Ecco. Ma secondo lei fino ad oggi è stato interpretato nella maniera corretta, Consorti, questo il ruolo di Papa Emerito e questa convivenza tra i due papi? Diciamo, come l'ha interpretato il Papa Emerito è un problema di carattere strettamente anche personale suo. Dal punto di vista, vorrei dire, tecnico-giuridico, c'è un solo Papa nella Chiesa Cattolica di Roma. Certo. E ce n'è sempre uno soltanto. Siamo abituati a dire, morto un Papa, se ne fa un altro. Vabbè. Ora, grazie a Dio, questo Papa, Benedetto XVI, non è morto, ma se ne è fatto un altro. Quindi, diciamo, dal punto di vista tecnico-logico, l'idea è sempre la stessa. Il Papa resta uno. Ma è vero però che lui ha detto, io sono un Papa emerito, ha continuato a chiamarsi Benedetto XVI, ha continuato a vestirsi di bianco, e tutto questo evidentemente può generare una certa confusione. Professor Consorti, come giudica lei invece questo intervento di Benedetto XVI, questo libro che sta per uscire con questa presa di posizione importante sul celibato, uno stop all'ipotesi di preti sposati? Come la giudica? Un'invasione di campo? No, questo direi di no. Innanzitutto vedremo poi come si risolve questo giallo, sì. Se è scritto davvero, come è stato scritto, cosa c'è scritto davvero, perché finora ragioniamo tra Twitter e indiscrezioni di questo genere. Però no, il fatto che il Papa sia emerito questo o non sia emerito, insomma, non toglie che possa esprimere la sua opinione. E anche, devo dire, l'opinione non è affatto scandalosa né nuova. Tutti i papi, compreso Francesco, hanno sempre detto che il celibato dei preti è una cosa da salvaguardare. Però va anche detto che nella Chiesa Cattolica esistono già preti sposati. E non è quindi un caso, diciamo, adesso è un caso eccezionale. Potrebbe in ipotesi diventare sempre meno eccezionale. E mi pare del tutto logico che persone di una certa età, come Papa Francesco, Papa Benedetto XVI, anche il Cardinal Sarà, non possono immaginare che questa, che oggi è un'eccezione, possa diventare una cosa più regolare, diciamo così. Grazie professor Consorti, grazie a per lei, essere stato con noi. E staremo a vedere anche qua, vedremo se questo libro uscirà, vedremo se quali sono i virgolettati, quali sono le frasi di Ratzinger e insomma se qualcuno chiarirà ancora se questo libro è uscito davvero con la volontà del Papa Emerito oppure no. 13:44 minuti è il momento invece dello sport, ci ritroveremo tra 15 minuti con tutti i convocati e con Carlo Genta. Intanto, ciao, quali Alessio. Sono le anticipazioni di oggi? Beh, assaggio. Sono tutti lì che friggono intorno al mercato, anche perché insomma i recenti infortuni hanno reso l'argomento di strettissima attualità. Proveremo a capire come la Juventus ovvierà l'infortunio di Demiral, la Roma quello di Zaniolo, poi Come è andato? Come sono andati gli interventi? Quello bisogna si sa qualcosa? Ovviamente sono andati tutto bene, tutto a posto, ci sono tempi di recupero che devono essere rispettati e che terranno questi due giocatori lontani dal campo per tanto tempo. Fino proprio al momento dell'inizio dell'Europeo. Sai, tutti e due sperano nell'Europeo, poi vediamo, insomma, mi sembra molto presto. E sul mercato tutto incerto perché la Juventus probabilmente non sostituirà Demiral, soluzioni interne, la Roma vediamo cosa fa con Zaniolo, ma soprattutto c'è l'Inter che spinge, c'è Conte che spinge per nuovi giocatori, poi c'è Bartoletti, Turrini, un sacco di temi e di risate credo anche oggi. E c'è anche un po' di tennis affumicato perché a Melbourne si è capito se andranno avanti o no, se riescono a respirare o no, se riescono a respirare o no, perché insomma i primi giorni di questo torneo sono abbastanza inquietanti dal punto di vista della, diciamo, salute pubblica dei spettatori e tennisti. Grazie Carlo, ti ritroviamo alle 14 con tutti i convocati. Noi facciamo una piccola pausa, torniamo tra poco, apriamo il quadro dei giornali internazionali con Giulia Crivelli.